quelli d'autostrada, tutto il tempo si consuma, ma Venere riappare sempre fresca dalla schiuma. La foto della scuola non mi assomiglia più, ma i miei difetti sono tutti intatti. E ogni cicatrice è un autografo di Dio, nessuno potrà vivere la mia vita al posto mio. Per quanto mi identifichi nel battito di un altro, sarà sempre attraverso questo cuore. E giorno dopo giorno passeranno le stagioni, ma resterà qualcosa in questa strada. Non mi è concesso più di delegarti i miei casini, mi butto dentro, vada come vada. Siamo come il sole a mezzogiorno, baby, senza più nessuna ombra intorno, baby. Siamo come il sole a mezzogiorno, baby, senza più nessuna ombra, più nessuna ombra intorno, baby. E poi un bacio, e poi un bacio, e poi altri cento. Teoricamente il mondo è più leggero di una piuma, nessun filo spinato potrà rallentare il vento. Non tutto quel che brucia si consuma. E sogno dopo sogno sono sveglio finalmente, per fare i conti con le tue promesse. Un giorno passa in fretta e non c'è tempo di pensare, muoviamoci che poi diventa sera. Siamo come il sole a mezzogiorno, baby, senza più nessuna ombra intorno, baby. Siamo come il sole a mezzogiorno, baby, senza più nessuna ombra, più nessuna ombra intorno, baby. Gente che viene, gente che va, gente che torna, gente che sta, il sole si arriva in mezzo al cielo, guardare noi che ci facciamo il culo, è un gioco, mezzo giorno di fuoco, è un lampo, sulle armature in guardia, niente da capire, mi specchio, in una goccia di sudore. Siamo come il sole a mezzogiorno, baby. Siamo come il sole a mezzogiorno, senza più nessuna ombra intorno. Siamo come il sole a mezzogiorno, senza più nessuna ombra intorno. Siamo come il sole.